pesciolino e sapessi nuotar, salverei l'indianino dal fondo del mar. La canoa si voltò, la lasciarono voltar. Fu colpa di Marianna che non seppe remar. Se io fossi un pesciolino e sapessi nuotar, salverei Marianna dal fondo del mar. La gallina non sa nuotare.